sorgendo il sole in Perù, sopra il mare e le montagne in Perù, sopra le persone e le città, c'è una nuova aria in Perù. Anche i bimbi sognano in Perù, ma i bimbi anche lavorano in Perù, ma i bimbi anche muoiono in Perù, in Perù. Sta nascendo il sole.